Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre, alcune rapide informazioni di servizio. La prima è quella relativa al nostro sito radio24.it, all'interno del quale potrete scaricare quasi in tempo reale le puntate di tutte le trasmissioni. All'interno dei profili dei singoli giornalisti troverete anche, per chi li ha, i blog. Il mio ormai lo conoscete, Guardie o Ladri, lo trovate anche sull'home page del Sole 24 Ore. La seconda informazione di servizio è quella che riguarda invece la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. A questa mail si è recentemente rivolto Luca Baresi, un nosso radioascoltatore di Colle Beato, in provincia di Brescia, quindi siamo in Lombardia, che ci ha segnalato uno dei tanti casi che hanno a che fare con il mondo dei motori, con le quattro ruote, insomma, con una croce, una delizia quotidiana per molti di noi. E do quindi il buongiorno al nostro radioascoltatore Baresi. Buongiorno Baresi. Buongiorno. E do il buongiorno ad un collega di Radio 24, Massimo Di Scienza, che è il conduttore del programma Strade e Motori, che va in onda tutte le domeniche su Radio 24 alle 16.30. Buongiorno Massimo. Buongiorno Roberto, buongiorno al nostro amico ascoltatore, buongiorno a tutti. Allora Luca Baresi, ci può descrivere, ovviamente in maniera sintetica, il caso e perché lei ritiene un abuso quello a cui è andato incontro? Beh, è molto semplice. Io mi sono trovato a pagare il bollino blu, come tutti d'altra parte devono fare, e mi risulta che riguardi le emissioni delle automobili, giusto? E siccome io vado a GPL, non mi risulta che il GPL inquini, a parte emissioni di CO2, ma tutti noi respirando emettiamo CO2. Quindi non solo ho scoperto di dover pagare il bollino, ma devo pagare anche 4 euro in più rispetto a una normale auto a benzina, cioè non 12 ma 16 euro. Da quando le è stato richiesto il pagamento del bollino blu, e se se ne è accorto per caso oppure è stato fermato da una pattuglia? Ecco, volevo capire questa cosa. Io l'ho pagato presso un'officina autorizzata e io me ne sono accorto solo per il fatto che sono andato con due auto, una di mia moglie a benzina e la mia a GPL. Mia moglie ha pagato 12 euro, io ho pagato 16 euro. Ecco. Allora ho chiesto all'impiegato: scusi, ma com'è sta storia? Perché io 4 euro in più? Sa perché? Perché ci sono i controlli su due emissioni, quella a benzina e quella a GPL. Perché il suo è un veicolo, un'automobile, diciamo così, ibrido, a tanto il GPL quanto la benzina. Esattamente. Benissimo. Allora, io la fermo un minuto perché sento anche che è molto, come dire, arrabbiato per questo pagamento non dovuto. Ma è veramente così? Il nostro radioascoltatore ha ragione o ha torto, Massimo? Ha torto, nel senso che ha torto per rispettare la sostanza, nel senso che c'è una delibera della Giunta regionale della Lombardia del 2007 che disciplina la materia. Facciamo un piccolissimo passo indietro: il controllo dei gas di scarico, perché adesso si chiama così, non c'è più in Lombardia il bollino blu, prima era una materia, diciamo così, di carattere nazionale dal punto di vista legislativo. Dal 2007 in poi è diventata invece una materia di carattere locale, regionale in questo caso. La Lombardia ha deciso nel 2007, è entrato poi in vigore nel 2008, innanzitutto di eliminare il bollino, perché il nostro amico Luca e tutti i nostri amici ascoltatori non hanno più il bollino applicato all'auto, ma hanno una semplice certificazione che devono portare con loro all'interno della vettura. E poi ha deciso anche di introdurre questa diversificazione, quella contro cui ha sbattuto Luca quando si è trovato ad andare in autofficina, ovvero 12 euro è il costo del controllo dei gas di scarico per tutte le autovetture che hanno la singola alimentazione, cioè benzina piuttosto che diesel. 16 euro invece è il costo per ogni controllo per le vetture che sono bifuel, cioè che hanno la doppia alimentazione, nel caso di Luca appunto benzina e GPL, gas di petrolio liquefatto. Allora mi rivolgo nuovamente al radioascoltatore Luca Baresi. Ha ascoltato quello che ha detto il nostro esperto, certo, il collega. Benissimo. Ecco, quindi lei purtroppo è sottoposto a questo, che non è un abuso, a questo versamento. Ma voglio chiedere a Massimo, al collega Massimo: a questo punto il nostro radioascoltatore deve pagare anche gli arretrati, oppure, visto che in passato non ha versato il pagamento di questi 16 euro, può andare tranquillamente avanti in questo modo? Innanzitutto bisogna capire che tipo di vettura ha, perché il controllo dei gas di scarico va effettuato su vetture che hanno più di 4 anni di anzianità, diciamo così, cioè sono state immatricolate più di 4 anni fa, oppure che hanno più di 80.000 chilometri. Adesso non so il caso di Luca che tipo di vettura era. In ogni caso l'importante è che ci sia questa certificazione se la vettura è stata immatricolata da più di 4 anni. Purtroppo i 16 euro ormai sono stati versati. Voglio fare una battuta, Roberto. Caro Luca, puoi consolarti, perché ad esempio se ti dico quanto costa il bollino blu per il B-Fuel in provincia di Ravenna, costa 16 euro e mezzo, quindi ti sarebbe andato peggio. 50 in provincia di Bologna addirittura, caro Luca, ti sarebbe costato 22 euro, proprio perché è una disciplina di carattere provincia regionale e poi provinciale nelle sue declinazioni, nelle sue ramificazioni. L'importante, Luca, è portare sempre con te la certificazione, perché se viene effettuato un controllo sulla tua vettura da parte della polizia locale e non dovessi essere, insomma, in grado di dimostrare di aver superato questo controllo, puoi incorrere in contravvenzioni che vanno, se non sbaglio, dai 50 ai 300 euro. Quindi è importante, insomma, essere in regola. Ahimè, purtroppo la legge, la delibera regionale, perché è una cosa regionale, dice questo. Dice questo. Ecco, io a questo punto però vorrei fare una domanda a Baresi. Intanto per chiedergli se ha qualche ulteriore commento, visto che è a disposizione il collega Massimo di Scienza, qualche altro commento al tal riguardo, ma vorrei introdurre un argomento magari anche scomodo, Baresi, vale a dire che è questo: molto spesso vengono ritenuti abusi quelli che invece sono delle discipline normative, quindi è il cittadino, il contribuente che deve rendersi conto e deve, come dire, conoscere le normative, le discipline. Si sa che la legge non ammette ignoranza, anche se su questo molto ci sarebbe da dire alla luce del ginepraio di norme che ci sono in Italia. Ecco, Baresi, il suo comportamento qual è stato? Quello di conoscenza delle cose? E poi ritorno un attimino indietro per chiederle se ha qualche altra domanda, può farla in questo momento. Sì, pronto per parlare? Prego. Allora, io sono perfettamente in regola, ho sempre pagato tutto, non ho arretrati, ho con me la documentazione, il mio veicolo ha 187.000 chilometri ed è del 97 e l'ho sempre tenuto perfettamente controllato, ma il problema non è questo. Chiamiamolo abuso, chiamiamolo in un altro modo, cioè mi sembra un comportamento disincentivante all'acquisto di veicoli non inquinanti. Possiamo definirlo così? Ecco, no, ma questa è infatti una riflessione interessante la sua. Scusi, gli inceneritori buttano in aria una quantità incredibile di veleni e a nessuno importa nulla. A un veicolo GPL invece conta? Ecco, allora rivolgo la domanda al collega Massimo Di Scienza. È d'accordo con il nostro radioascoltatore? Perfettamente d'accordo. È un, diciamo così, per quello dicevo all'inizio, nella sostanza il nostro amico Luca ha torto, nel senso che il comportamento dell'autofficina nel momento in cui Luca è andato a fare il controllo dei gas di scarico è stato corretto. 16 euro da tabulato della regione Lombardia doveva pagare e 16 euro ha pagato. Che poi alla base ci sia una decisione, tra virgolette, illogica da parte del legislatore, nel senso che Luca l'ha definita giustamente disincentivante nell'utilizzo di auto che utilizzano delle propulsioni più pulite, questo è assolutamente vero. Sta di fatto che, insomma, noi, come dire, utilizziamo anche questi microfoni e lo facciamo spesso nella trasmissione della domenica, proprio per chiedere al legislatore di cercare quantomeno, insomma, di andare incontro alle esigenze anche di chi opera una scelta verde nella scelta dell'autovettura, cioè cercare quantomeno, insomma, come in questo caso, di parificare, ecco, quella potrebbe essere un'idea, di scendere a 12 euro anche per il bollino blu o per... Certo, quantomeno non gravare, insomma, di un prezzo superiore chi magari fa una scelta in questo caso ecologica, più rispettosa dell'ambiente rispetto a chi usa l'auto a benzina. L'importante però dire è che è il legislatore che deve intervenire, certo, in questo caso regionale, certo, non certo l'autofficina che deve rispettare la tabella. Benissimo, allora io farei un'ultima battuta. Il federalismo amministrativo in questo caso non aiuta, perché insomma ci hai fatto presente casi, sì, in cui da una parte si paga 20 e dall'altra 10, insomma è un po' anche questo un piccolo caos. A Roma si paga 7 euro e mezzo, quindi va benissimo agli amici che ci ascoltano, certo, che ci ascoltano da Roma. Sì, non aiuta sicuramente, però è ormai un procedimento, come dire, consolidato, certo, quindi certo, andiamo avanti da questo punto di vista. Ci sarebbe da chiedere anche qui forse maggiore omogeneità, però è un suggerimento che si può dare. E però rimani inascoltato. Assolutamente, al momento, lo sai meglio di tutti. Al momento assolutamente sì. Allora io ringrazio il nostro radioascoltatore Baresi, ringrazio Massimo Di Scienza, collega di Radio 24, rimando la sua trasmissione la domenica alle 16.30 Strade e Motori, grazie in regia Filippo Aureggi e in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi auguro una buona giornata e vi dà appuntamento a domani.